Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo Renzi sulla scuola fa una truffa, compie una truffa culturale. Allora, io lo voglio dire con chiarezza, facciamo circolari, diamo messaggi chiari, ma se ciò non dovesse bastare, credo una responsabilità irrinunciabile di passare anche a strumenti legali. Era piuttosto imbufalita, come avete sentito, cari ascoltatrici e ascoltatori, la ministra dell'istruzione Giannini questa mattina a Melog su Radio 24. Questa benedetta fantomatica teoria del gender che continua a spaventare genitori un po' in tutta Italia. Ci sono delle circolari che non sono del Ministero dell'Istruzione, non si capisce bene da chi vengano, dei messaggi Twitter, audio, delle cose impressionanti. Lei si è scocciata a questo punto, ha detto non esiste questa teoria del gender dove si vogliono trasformare le bambine in bambini. In realtà poi c'era anche da Nicoletti questa mattina a Radio 24 un notissimo sessuologo di fama internazionale che ha detto tra l'altro una cosa è l'identità del genere genetica, come uno nasce maschio o femmina e quello rimane a meno che poi non si voglia operare, prendere ormoni eccetera, e un altro conto è l'orientamento sessuale, sono due cose diverse. Insomma, si è fatta tanta confusione e la ministra, avete sentito, ha detto la prossima volta agiremo per vie legali se qualcuno insiste in questo senso. Parleremo di molte cose come sempre stasera. Che ve lo dico a fare, c'è sempre in primissimo piano la questione immigrazione con tanti sviluppi diversi e anche tanti aspetti contraddittori. L'Ungheria, per esempio, che sapete che ha costruito il muro alla frontiera con la Serbia, oggi sono stati scontri, 300 feriti, ieri ha detto che lo vuole costruire anche lungo la Romania, si è imbufalita a sua volta, oggi invece dice anche il confine con la Croazia che sta aprendo le sue frontiere invece. E poi poco fa il primo ministro Orban ungherese che ha detto beh, se l'Unione Europea deciderà per delle quote obbligatorie di migranti le accetteremo. Insomma, non si capisce bene la posizione, si vede che intanto mette le mani avanti sui fili spinati i muri, poi dice se proprio le quote saranno obbligatorie le accetteremo. Tanta confusione, tanta drammaticità, naturalmente sofferenza per chi fugge da guerre e situazioni difficili. E poi a proposito di sofferenza, sapete la vicenda della coppia dell'acido, no? Che aveva sfigurato un ragazzo a Milano. Oggi c'è stato un altro processo a carico di questa coppia, c'è Stefano Savi, anche lui studente dell'Università Bicocca, che è stato sfigurato all'inizio di novembre dell'anno scorso. Oggi è voluto essere presente alla prima udienza con coraggio, con forza, e stasera sentiremo la sua avvocata, stasera la legale, più tardi qui a Effetto Note, ci dirà come è andata l'udienza, un po' riassumerà anche la vicenda. E poi abbiamo le partite di pallacanestro, la Champions League con la Roma contro il Barcellona, insomma una puntata ricchissima, non perdete neanche un istante. E vi ricordo ci sono i vostri due canali privilegiati per intervenire, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, anche se volete aderire in qualsiasi momento, giorno e notte, e poi anche il numero per i messaggi 349-238-6666, 349-238-6666, sia attraverso gli sms, sia sulla pagina Facebook. Potete commentare per esempio questo. Oggi c'è stato un acceso dibattimento ancora al Senato sulle riforme, qualcuno ha detto, adesso non ricordo che senatore fosse, alla gente delle riforme in questo momento non gliene frega niente, voi che pensate, vi stanno a cuore queste riforme tanto dibattute oppure no? Scrivete mentre io vi racconto prima di tutto la giornata. L'emergenza immigrazione, scontri e arresti tra polizia e migranti al confine tra Serbia e Ungheria, ma il presidente ungherese dichiara se passa la legge sulle quote è da accettare. Riforme, domani in aula il disegno di legge Boschi, ma le opposizioni insorgono e parlano di forzature inaccettabili. Il Movimento 5 Stelle vuole chiedere l'intervento di Mattarella. Politica economica, il ministro Padoan dice che il governo pensa a un nuovo provvedimento sugli esodati, annuncia lo stop della TASI anche per chi è in affitto. Lo studente sfigurato con l'acido, oggi Stefano Savi presente in tribunale alla prima udienza davanti al suo presunto aggressore, lo guarda in faccia e dice voglio verità e giustizia, stasera la sua legale a Effetto Notte. La fantomatica teoria del gender, la ministra Giannini a Radio 24 dice non esiste nulla di tutto ciò nella buona scuola, è solo una truffa culturale, denunceremo chi insiste. Tabagismo, in Italia 10 milioni di fumatori, 83.000 morti l'anno, in arrivo nuove regole europee, immagini shock sui pacchetti. Sport tra Roma, Barcellona, Italia-Lituania, grande serata di calcio e basket. Partiamo Parliamo ovviamente dei nuovi continui sviluppi dell'emergenza migranti. Oggi sono stati scontri, vi dicevo, tra polizia e migranti al confine tra Ungheria e Serbia, con un bilancio di 300 feriti, era quello fino a poco fa. Ungheria che ha cominciato a mettere in pratica le leggi speciali sull'immigrazione, arrestando chi entra clandestinamente. Poi verso sera c'è stato un ammorbidimento, diciamo, del primo ministro Orban, che ha detto, il primo ministro ungherese, se dovesse passare ai vari vertici europei questa legge delle quote obbligatorie di migranti, allora questa legge la rispetteremo. Ma intanto, dopo aver annunciato ieri un muro al confine con la Romania, che si è detta totalmente contraria, poco fa ha annunciato che costruirà un muro anche al confine con la Croazia che oggi aveva detto noi apriremo le porte ai migranti, li faremo passare senza ostacolarli. Insomma, continua a essere quindi una situazione molto complessa, molto convulsa, mentre gli Stati Uniti chiedono a tutti i paesi dell'Unione Europea di fare la loro parte. E passiamo alla politica italiana. C'è qui il difficile, accidentato cammino delle riforme, con la cronaca di quanto è avvenuto e sta avvenendo in Senato. Si va direttamente in aula, malgrado il ritiro degli emendamenti dell'opposizione al provvedimento sulle riforme istituzionali. Lo decidono governo e maggioranza, tra le proteste anche dei dissidenti Dem. Una capigruppo molto vivace, dove il presidente del Senato Pietro Grasso invita la presidente della Commissione Affari Costituzionali Anna Finocchiaro del PD a spiegare perché non ci sono le condizioni per proseguire in commissione al termine, così il capogruppo democratico Luigi Zanda. Il Partito Democratico e la maggioranza hanno chiesto di andare in aula con il provvedimento. In concomitanza, il senatore Calderoli ha ritirato 550.000 emendamenti. Io consideravo una manovra politica i 550.000 emendamenti e considero una manovra politica il loro ritiro. Ma dalle opposizioni si parla di forzatura. Paolo Romani di Forza Italia. È stata una forzatura che noi consideriamo inaccettabile, nel senso che il ritiro degli emendamenti in commissione da parte di tutti i gruppi di opposizione poteva preludere a un approfondimento. La protesta prosegue in aula. Dopo la capigruppo, il presidente dei senatori 5 Stelle Gianluca Castaldi urla, rivolta alla maggioranza: fate schifo, siete una vergogna, avevate già deciso tutto e avevate già tutto pronto. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto il ministro dell'economia Padoan apre un nuovo intervento governativo sugli esodati. Proprio ieri c'era stata la manifestazione lì al Ministero dell'Economia, ma chiude a delle possibili modifiche alla legge Fornero. Chiude la porta a modifiche strutturali della riforma Fornero sulla previdenza il ministro dell'economia Padoan. Andrebbe contro i principi di stabilità dei conti del sistema pensionistico, dice il responsabile del Tesoro intervenendo alla Camera durante il question time. Andrebbe quindi valutata con attenzione il disegno di eventuali norme di flessibilità tenendo conto di costi e benefici. Esistono già forme di flessibilità nell'attuale normativa sulla previdenza, ricorda Padoan, con la possibilità di andare in pensione prima dell'età di vecchiaia. Altro capitolo, quello degli esodati. Troveremo una soluzione, dice il ministro dell'economia, ma avverte: non ci sono certezze sui risparmi del fondo. Quanto all'eliminazione della TASI, Padoan annuncia via anche per chi è in affitto. Sul fronte della crescita, intanto l'OCSE rivede al rialzo la stima del PIL per quest'anno allo 0,7% più 0,1 punti. Questo grazie alle riforme, in particolare al mercato del lavoro. E di occupazione parla anche il presidente di Confindustria Squinzi, che fa capire: le immigrazioni alla lunga sono fenomeni positivi, ma in questo momento è necessario ridare un futuro ai nostri giovani. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Padoan ha anche annunciato che verrà tolta la TASI anche a chi vive in una casa in affitto. E adesso parliamo, spostiamoci sulle notizie dall'estero, col colpo di Stato in Burkina Faso, in Africa. Il presidente e il primo ministro ad interim del Burkina Faso sono stati arrestati e incarcerati oggi dai militari. Per l'11 ottobre sono state fissate le elezioni che avrebbero dovuto ridare il potere ai leader non militari. I testimoni hanno parlato di un colpo di Stato in corso, questa è notizia di poco fa. E poi in Siria, nel giorno nel quale il presidente Assad rilascia un'intervista a una TV russa dicendo all'Occidente che l'arrivo massiccio di profughi siriani dipende dalla scarsa volontà di combattere i terroristi dell'ISIS. L'Australia intanto annuncia i primi raid sulla Siria, mentre la Francia fa sapere che partirà entro breve. Di nuovo in Italia con la cronaca, con lo studente sfigurato con l'acido. Dopo la condanna a 14 anni in primo grado per l'aggressione a Pietro Barbini, Alexander Böttcher è tornato oggi in aula per le altre aggressioni di cui è accusato insieme alla compagna Martina Levato. In aula c'era anche una delle vittime, Stefano Savi, che è voluto essere presente all'udienza davanti al suo presunto aggressore. Lo ha guardato in faccia, ha detto: voglio verità e giustizia. E come vi dicevo, questa sera ci sarà più tardi, con effetto notte, la sua avvocata. E poi la temutissima teoria del gender. Chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo di Renzi sulla scuola compie una truffa culturale. Ci tuteleremo con gli strumenti a nostra disposizione, anche le vie legali. Vi ho fatto sentire all'inizio la ministra Giannini, che ha affermato questo a Radio 24 durante la trasmissione Melog. Sentiamola, ospite di Gianluca Nicoletti. Chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo Renzi sulla scuola fa una truffa, compie una truffa culturale. Allora, io lo voglio dire con chiarezza, ci tuteleremo con gli strumenti di cui vi state muovendo in questa direzione. Darà un atto concreto, sì, e quale sarà? Francamente, facciamo circolari, diamo messaggi chiari, ma se ciò non dovesse bastare, credo una responsabilità irrinunciabile di passare anche a strumenti legali. Io mi auguro che i messaggi chiari, la circolare che il capo dipartimento sta mandando proprio in queste ore a tutti i dirigenti scolastici, a tutte diciamo le diramazioni periferiche del mondo della scuola, questa è una notizia. Siano sufficienti. Ove naturalmente si continuasse a incriminare in questo modo specifico e circoscritto la legge, è chiaro che studieremo quali strumenti adottare. Bene, quindi chi abbia orecchie intenda, gli altri in sacco a pelo, come si diceva una volta. Invece, per quanto riguarda il tabagismo, il Ministero della Salute lancia una campagna contro il fumo che si chiama "Ma che sei scemo?", che mi pare anche una domanda abbastanza opportuna nei confronti di chi continua a intossicarsi. Scusate, sono veramente una accesa antifumista da anni e anni. In Italia 10 milioni di fumatori ci sono, 83.000 morti l'anno. Ci sono in arrivo nuove regole anche dall'Unione Europea, con delle immagini ancora più shock sui pacchetti di quelle che erano state presentate già tempo fa. Ma adesso ci spostiamo sulla pagina sportiva. A Lille, in Francia, l'Italia affronta la Lituania nella pallacanestro per conquistare un posto in semifinale agli europei. Come sta andando Carmelo Prestisimone? Ciao Carmelo. Lituania avanti 20-17 qui a Lille sull'Italia, sull'Italbasket, quando manca un minuto alla fine del primo periodo, Roberta, allo stadio Pierre Mauroy di Lille. In questo momento la tripla di Cinciarini si riporta in parità 20 pari quando mancano 58 secondi alla fine del primo periodo. Grande atmosfera, grande evento, questo è il quarto di finale dell'Europeo di pallacanestro. Ci sono sì 5.000 tifosi lituani, ma ci sono anche 1.500 italiani venuti da ogni parte d'Italia, molti sono anche gli emigranti che sono arrivati qui a Lille in Francia, da Bruxelles e dalla Germania, da Berlino, dove l'Italia, lo ricordiamo, ha giocato il girone di qualificazione. Bene Bellinelli, che ha realizzato due triple. Il pericolo numero uno da tenere a padre sicuramente Balanchunas, il centro lituano dei Toronto Raptors, autore fino a questo momento di 8 punti. Bargnani c'è, gioca, ha smaltito il suo problema, il suo fastidio al polpaccio, è entrato regolarmente in quintetto, quindi Pianigiani può contare anche sulla forte dei Brooklyn Nets. A te. Grazie Carmelo Prestisimone, ci aggiorniamo dopo. Sicuramente si è sentita la grande atmosfera di cui parlava Prestisimone, soprattutto l'atmosfera. Giovanni Capuano invece ci aggiorna su come è iniziata la partita di Champions tra Roma e Barcellona. Eccomi, c'è grande atmosfera anche a Roma, anche se il Barcellona sta vincendo 1-0 e quindi in questo momento c'è un pizzico di delusione, c'è anche un pizzico di difficoltà per la Roma, che aveva iniziato in realtà bene nel primo quarto d'ora. Si era anche resa pericolosa in un paio di occasioni in contropiede con Salah e Dzeko, poi però sono arrivate le fiammate del Barcellona, che è una squadra straordinaria con un tridente davanti, capace in ogni momento di creare dei pericoli. Il gol è arrivato al 21esimo e lo ha segnato l'uruguaiano Suarez, e in questo momento c'è un pareggio incredibile della Roma, 31esimo, un pareggio con un pallonetto praticamente da metà campo della Roma, che dunque ha trovato il pareggio, un gol davvero fantastico. Io invito chi potrà nelle prossime ore di andarlo a vedere, perché è un gol di quelli che raramente si vedono a questi livelli. Roma dunque che ha trovato il vantaggio, stavamo raccontando l'1-0 di Suarez, segnato al 21esimo con una improvvisa accelerazione, tra l'altro con anche alcune proteste da parte dei giocatori della Roma per un contatto tra Messi e Digne, tutto regolare per Kuipers. Pochi istanti dopo, Kuipers che aveva graziato la Roma perché c'era un rigore netto per il Barcellona per un fallo di Szczęsny, il portiere, su Suarez. Roma che stava ballando, stava rischiando di prendere il raddoppio, è arrivato il pareggio di Florenzi con un gol davvero incredibile. Florenzi ha fatto 30 metri di volata, è entrato nella metà campo del Barcellona e poi ha pescato Ter Stegen fuori dai pali con un pallonetto che ha sbattuto sul secondo palo e si è insaccato. Dunque 1-1, davvero un gol incredibile, questo gol che si vede raramente in Champions League. Grazie Giovanni Capuano, poi vedremo se si vedranno altri gol e da che parte. Intanto, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi viaggia, guardavo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 su quanto vi stiano a cuore queste riforme su cui tanto dibatte il governo, il Parlamento eccetera. Intanto c'è qualcuno che scrive: teoria gender, visto che oggi la Giannini si è arrabbiata molto e ha chiarito sulla questione, teoria gender come la teoria delle scie chimiche, vie legali, ok, dice ascoltatrice, ascoltatore Francesco da Piacenza, la riforma del Senato è fondamentale e strutturale, speriamo che Renzi ce la faccia. Poi dice Marco: ci vuole un governo che dia pace e serenità permanente, il resto è tutto secondario. La ministra Giannini che chieda o legga gli atti della UNAC, presidenza del Consiglio, il direttore De Giorgi ha fatto realizzare opuscoli per la scuola, vedere sito eccetera eccetera. C'è qualcuno che insiste su questa teoria del gender, non lo diciamo alla ministra Giannini, se no si arrabbia ulteriormente. E poi sulle riforme scrive un altro messaggio: 349-238-6666, il governo italiano è come un ubriaco che non può bere. Fabio dice: lei si ostina a dire femminicidio, è un termine e un reato riconosciuto a livello dell'ONU, vorrei dirti Fabio. Dice: stia tranquilla che le più perfide e crudeli sono le donne, vedasi Levato, Martina Levato, di cui parleremo più tardi a proposito della coppia dell'acido certamente, e pagherà, è già stata condannata a 14 anni e probabilmente ad altri, ma è, diciamo, le cose più strazianti, più efferate nel mondo le hanno fatte e continuano a farle gli uomini, non tutti gli uomini, ma comunque persone di sesso maschile. Fabio, ci sentiamo dopo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. È vergognoso ascoltare, dice un ascoltatore o ascoltatrice, l'arrogante Padoan, troppo facile parlare di pensioni quando uno come lui andrà in pensione con almeno, e manca la cifra, forse non la sa il nostro ascoltatore o ascoltatrice, quindi non l'ha scritta, forse è rimasta nell'etere. Benissimo, comunque poi lo ritroveremo, semmai si sentiva comunque, diciamo, una certa contrarietà e una certa disappunto di chi ha scritto quel messaggio. Comunque restiamo, se possiamo, più sulla domanda che vi ho lanciato, visto che si dibatte tanto tra i partiti in Parlamento sulle riforme costituzionali. A voi queste riforme quanto stanno a cuore? Perché qualcuno ha detto oggi, parlando al Senato, un senatore, adesso non ricordo il nome, erano tanti che parlavano insieme, ha detto agli italiani, in un momento così di difficoltà, di crisi eccetera, non gliene frega niente di queste riforme. E a voi scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 i messaggi. E poi dice questo ascoltatore, vabbè, questo lo leggo dopo, è un po' complesso come argomento, dopo parleremo tra pochissimo degli ultimi sviluppi sulla questione immigrazione. Adesso vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali. Il governo accelera sulle riforme, per l'appunto il disegno di legge Boschi sarà domani in aula, la minoranza del PD dice no a prove muscolari, anche le opposizioni si ribellano. Battaglia al confine ungherese, la Croazia apre ai profughi, l'Unione Europea spinge sugli hotspot, questi centri di riconoscimento, di identificazione per i migranti, che vuole che siano fatti in Italia. Mattarella però dice la risposta sia globale. Padoan, ministro dell'economia, il governo studia nuovi interventi per gli esodati, ma la legge Fornero non si cambia. Il ragazzo sfigurato con l'acido al processo davanti all'aggressore Stefano Savi oggi va in aula come vittima e anche come parte civile, ne parleremo più tardi con la sua avvocata. La ministra Giannini, ministra dell'istruzione, oggi a Radio 24 ha detto: nella buona scuola non c'è nessuna teoria gender, useremo anche gli strumenti legali contro questa truffa culturale. Il Papa rompe i luoghi comuni sulla donna, dice questo luogo comune della donna tentatrice, dice bisogna assolutamente sfatarlo. E poi Assad, il presidente siriano, che sfida l'Occidente, non lascio, dice in una intervista a una TV russa, e poi intanto Parigi annuncia raid su Damasco. In Italia 10 milioni di fumatori, 83.000 morti, l'anno in arrivo nuove regole dell'Unione Europea, immagini shock sui pacchetti. Quindi ritorniamo inevitabilmente, ve l'ho detto, ci siamo da mesi continueremo, addirittura il Pentagono, vi ricordate giorni fa, aveva detto che questa crisi umanitaria, questo esodo epocale durerà per 20 anni, quindi immaginiamoci. La giornata di oggi in particolare è stata connotata dagli scontri che ci sono stati tra polizia e migranti al confine tra Ungheria e Serbia. L'Ungheria sapete che ha completato il suo muro di filo spinato, no? Dal confine con la Serbia. Ieri ha annunciato che lo vuol fare anche con la Romania, ma la Romania ha detto non se ne parla neanche. Anche oggi ha detto allora lo faremo anche con la Croazia, Croazia che aveva oggi aperto le frontiere dicendo noi li lasceremo passare, questa è diventata la nuova rotta quindi dei migranti. La presidente croata comunque Kolinda Grabar-Kitarovic ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché dice non è soltanto una questione di emergenza umanitaria ma anche poi di sicurezza. Intanto la settimana prossima potrebbe tenersi appunto una riunione speciale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nel frattempo la cancelliera tedesca Merkel insiste sulla necessità di un vertice europeo straordinario il prima possibile. La situazione, come vedete, è molto tesa e molto confusa. In Croazia entro i prossimi giorni sono attesi altri 4.000 profughi. Ne parliamo con Matteo Villa. Buonasera. Buonasera a voi. Ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, Istituto per gli Studi di Politici Internazionali. Come ne usciamo da questa situazione? Poi queste continue contraddizioni, perché l'Ungheria continua a parlare di muri, oggi gli scontri. Vedevo poco fa la Serbia che dice la polizia ungherese ha avuto modi brutali con i profughi e poi in serata sempre il primo ministro Orban ungherese ha detto beh, se saranno stabilite queste quote obbligatorie dai vertici europei e le accetteremo. Ecco, no, ecco, non sapevo di quest'ultimo sì. sviluppo, però come ha detto lei... giustamente la situazione non è da oggi che l'Europa è confusa e divisa e di nuovo ci ritroviamo alle solite, nel senso che di fronte all'emergenza gli stati cercano di trovare una soluzione, come sempre si arriva a una percezione da parte di tutti che sia un gioco da somma zero, ci perdo io, ci vinci tu e quindi alla fine la soluzione viene rimandata. La Merkel in realtà ha ottenuto che si tenga il prossimo consiglio straordinario dei ministri degli interni il 22 martedì prossimo, in realtà probabilmente anche da lì non uscirà nulla perché di nuovo si ritornerà a parlare di quote, le prime quote, quelle dei famigerati 40.000 che sono scese 32.000 e gli stati non volevano le quote della commissione, allora si sono obbligati volontariamente a accettarne una parte, le prime quote sono state attribuite, ormai si dovrà capire con quali criteri, ma più o meno ci sono, le altre probabilmente verranno credo abbandonate, però se Orban ha detto così vediamo, magari qualcosa torna in gioco. Detto questo, di nuovo l'Europa si ritrova di fronte a un'emergenza che è diventata grandissima, ma che conosciamo da decenni. Io vabbè, ricordo la crisi di Ventimiglia tra Francia e Italia a giugno, però se ci ricordiamo, e poi quella di Calais tra Francia e Regno Unito, però già nel 2011, tanto per stare sull'Italia, non so se ricordate, c'erano i treni dei tunisini che andavano verso la Francia ce li aveva rimandati indietro. È il solito gioco, anche negli anni 90 c'erano treni pochi di albanesi che andavano verso la Germania ce li rispedì indietro. È un solito gioco, cioè i paesi di frontiera a cui gli stati chiedono di fare tanto, cioè processare tante richieste d'asilo, alla fine non ce la fanno, trovano una valvola di sfogo che è quella di far finta di niente, di non identificare un po' di migranti, a volte decine di migliaia, che si spostano clandestinamente in altri paesi, gli altri paesi ci rimandano indietro, altri non li identificano non riescono a trovarli e noi così riusciamo, noi Italia, noi Grecia e in questo caso anche l'Ungheria, diciamo un po' sfiatare, però è una cosa che rimane fuori dai confini della legalità, non esiste un sistema né emergenziale né permanente di divisione. Ecco. Anche perché tra l'altro l'Europa continua a chiedere all'Italia di creare questi hotspot, li chiama, che sono esatto. praticamente dei centri di identificazione, no? dei profughi, però anche oggi Mattarella ha detto però bisogna che ci sia una strategia globale, delle regole precise, in che senso, come facciamo poi. Esattamente, anche qui si vedono tutte le fratture, le crepe tra gli stati, cioè gli hotspot di fatto sono una cosa buona perché aiuterebbero i paesi di primo ingresso a processare i migranti e richiedere asilo. Il problema è che in questo caso, rafforzando i controlli, i paesi come l'Italia che sanno che parte dei migranti li lasciano andare oltre frontiera senza dire nulla, significa prendersene di più. Le quote della commissione, che la commissione che gli stati hanno deciso sono basse rispetto a quelli ai migranti che noi lasciamo andare. In media l'anno scorso abbiamo fatto andare via dall'Italia 90-80 mila persone. Mm. Se pensate che le quote della commissione ce ne distribuiscono 40 mila, mi pare, no? Esatto, di cui 12 mila all'anno per l'Italia per 2 anni. Insomma, si tratta di un squilibrio forte. E poi si deve capire cosa significa, insomma, qual è l'aiuto, in cosa consiste l'aiuto appunto dell'Unione Europea per creare poi questi centri. Grazie intanto Matteo Villa, tanto la situazione continueremo a aggiornarla giorno per giorno, sempre più difficile, certo. Vedremo se si arriverà mai a delle decisioni davvero condivise. Grazie intanto. Speriamo, Villa, grazie a voi. Grazie. E adesso affrontiamo un tema che è strettamente, molto strettamente connesso a quello dell'emergenza immigrazione, quello della terribile guerra civile in Siria. Un altissimo numero di profughi, ormai lo sapete, lo siete da tanto tempo, provengono proprio dalla Siria. E dopo che la comunità internazionale per tanto tempo non ha saputo bene che pesci prendere, come muoversi nei confronti di questa guerra civile, si fa avanti la Russia, che da qualche giorno ha quantomeno rafforzato, la sua presenza in Siria. E nelle ultime ore c'è stata un'intervista ai media russi del presidente siriano Assad, che ha incolpato l'Europa di coprire, addirittura di finanziare i terroristi dell'ISIS, e dice basta soldi ai terroristi, così, solo così l'Europa potrà fermare i migranti. Ne parliamo con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Allora, gli Stati Uniti temono che la Russia voglia allargare i gomiti e prendere ulteriore spazio, in quell'area. E però ho visto poco fa una risposta degli Stati Uniti a questa cosa che diceva Assad. Dice bene che Mosca contribuisca alla lotta all'ISIS, che dia un contributo alla coalizione contro l'ISIS, ma ogni sforzo mirato a rafforzare le relazioni con il regime di Assad sarebbe controproducente. E allora cosa vogliono fare? Questa è la mia domanda. Se vogliono combattere l'ISIS ma allo stesso tempo non fare un favore ad Assad? Va, insomma, diciamoci la verità. È un po' difficile avere la botte piena, la moglie ubriaca, come si diceva un tempo. Ho l'impressione che gli Stati Uniti siano assai indecisi su quello che vogliono fare, o perlomeno hanno una strategia che in realtà non combacia molto con quello che circola sui media e sui giornali. In tutti i grandi drammi, alla vigilia forse anche di tragedie anche maggiori di questa, circola sempre una dose di propaganda. Ve la devo ricordare, per esempio, cosa si diceva all'inizio alla vigilia della guerra in Iraq contro Saddam Hussein, che là c'erano le armi di distruzione di massa? Beh, insomma, lo sappiamo tutti com'è andata a finire. E adesso ovviamente gli americani fanno i meravigliati che i russi aiutano Bashar Assad, ma aiutano la famiglia Assad e il regime di Damasco da 40 anni, non da oggi. E se ci sono i jihadisti a 30 km da Damasco, a maggior ragione. Bisognerebbe chiedere agli americani che cosa stanno facendo loro nella guerra al califfato. E oggi abbiamo avuto la nostra altra dose di propaganda, però, che viene da Washington, mentre Assad incolpa gli europei di finanziare i terroristi, che è un po', insomma, forse non è del tutto vero, ma è vero che sono passati migliaia di jihadisti dal confine alla Turchia, 30.000 circa, negli ultimi 4 anni, no? e questo anche con l'approvazione degli Stati Uniti e degli europei. E dall'altra parte dell'Atlantico ci si copre, cioè si dice che adesso i vertici del comando centrale americano, il famoso CENTCOM, avrebbe manipolato i rapporti che davano alla Casa Bianca e al Pentagono, dicendo guardate che sono state date informazioni distorte sull'andamento della guerra, ma in realtà non c'è stata nessuna manipolazione. È un modo, un alibi per giustificarsi, dire non abbiamo combattuto a dovere l'ISIS perché ci avevano detto che in realtà era, si poteva sottovalutare. Guardate, il fenomeno. Ma certo, Roberta, qualche settimana fa ero con il nostro ex capo di Stato Maggiore Camporini, Vincenzo Camporini, e parlavamo un po' di quali erano delle missioni aeree americane. Circa il 60-70% dei raid si è concluso in un nulla di fatto. L'abbiamo viste tutte le foto di Palmira prima e dopo, e gli americani non sono intervenuti. Senti, adesso pare che l'Australia avvii degli attacchi e anche la Francia ha annunciato dei raid nelle prossime settimane. Come la vedi questa iniziativa? La vedo appunto con questa buona dose di propaganda che accompagna sempre le grandi tragedie, ma in realtà la strategia degli americani non è certo quella di entrare in campo per eliminare il califfato o Assad. Gli Stati Uniti sono interessati a contenere le forze in campo, non ad assegnare una vittoria agli sciiti, ai sunniti. È in fondo una vecchia redizione delle tattiche del doppio contenimento che fu attuato nei confronti di Iran e Iraq negli anni Ottanta. Cioè, in qualche modo noi dobbiamo essere un po' attenti in quello che sta succedendo adesso, perché quello che sta avvenendo lì purtroppo è arrivato alle nostre porte, ma non c'è arrivato per caso. Già, povero mondo. Grazie Alberto Negri. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alberto. Ci prendiamo una piccola pausa. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 per dire vi stanno a cuore queste riforme tanto dibattute. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. È un tema politico lassativo, quello delle riforme, scrive un ascoltatore, si firma AS al 349-238-6666, poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Marilena, vi ho chiesto se vi stanno davvero a cuore queste riforme che tanto fanno discutere la politica, dice quelle per l'agibilità delle istituzioni sì, il bicameralismo perfetto la impedisce da troppi anni. Tiziana, certamente sì, specialmente quelle che possono garantire uguali diritti a tutti i cittadini, come in qualsiasi democrazia che si rispetti. Stiamo per parlare con l'avvocata di un'altra vittima della cosiddetta coppia dell'acido. Tra pochissimo vi ricordo prima le notizie più importanti. L'emergenza immigrazione, scontri e arresti tra polizia e migranti al confine tra Serbia e Ungheria, ma il primo ministro ungherese dichiara se passa la legge sulle quote è da accettare. Riforme, domani in aula il disegno di legge Boschi, ma le opposizioni insorgono e parlano di forzatura inaccettabile. Politica economica, il ministro Padoan dice che il governo pensa a un nuovo provvedimento sugli esodati, annuncia lo stop della TASI anche per chi è in affitto. Lo studente sfigurato con l'acido, ne parleremo tra pochissimo. La fantomatica teoria del gender, la ministra Giannini a Radio 24 dice non esiste nulla di tutto ciò nella buona scuola, denunceremo chi insiste. E per lo sport, tra Roma e Barcellona e Italia-Lituania, grande serata di calcio e basket. Occupiamoci adesso invece di un fatto di cronaca, diciamo in verità un fattaccio di cronaca che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, è quella della cosiddetta, il fatto è quello della cosiddetta coppia dell'acido, formata da Alexander Böcher, che è un giovane broker, e da Martina Levato, un'ex studentessa della Bocconi, che è già stata condannata, questa coppia, a 14 anni, vi ricordate, di reclusione in un processo in cui erano accusati di aver aggredito, causandogli lesioni gravissime, Pietro Barbini. Lo avevano aggredito il 28 dicembre scorso, era ex compagno di lei, lo avevano aggredito con l'acido e Pietro Barbini era stato attirato in un appuntamento da un complice di Martina e di Alexander, che è Andrea Magnani, che è anche lui coinvolto nel processo, ma la coppia pare che abbia in realtà colpito più volte. Saluto in collegamento l'avvocata Benedetta Maggioni. Buonasera avvocata. Sì, buonasera, buonasera. Che è legale di Stefano Savi. Stefano Savi ha 25 anni, è uno studente di economia dell'Università Bicocca di Milano ed è stato aggredito a sua volta nella notte tra il 1 e il 2 novembre dell'anno scorso, mentre rientrava in casa dopo una serata con gli amici in periferia, nella periferia di Milano. Ecco. Oggi Savi ha partecipato alla prima udienza di questo processo in cui sono sempre coinvolti Alexander Bocher e Martina Levato come parte civile, avvocata. Sì, esattamente, parte civile, parte offesa dal reato, assolutamente. Com'è andata l'udienza? Lui tra l'altro ha un viso appunto sfigurato da questa aggressione con l'acido, mi pare che abbia avuto 15 operazioni chirurgiche e tante altre ne dovrà fare, no? Quasi 15, sì, altre purtroppo ne dovrà fare, lui ne è consapevole, il percorso è ancora lungo, ma devo dire che rispetto a quel tragico primo novembre ha fatto molti miglioramenti, la medicina dà per fortuna dei risultati inaspettati e impensabili, con tanti progressi per lui, per il suo viso, per quella che poi è stata la sua, direi, identità rubata, insomma, colpita, e quindi insomma oggi è venuto venire lui spontaneamente, con grande, direi, forza, coraggio, determinazione, senza paura, senza vergogna di mostrarsi come è giusto che sia, perché insomma è lui la vittima, ecco. Chiaramente lui stesso ha detto non sono io che mi devo vergognare, mi pare che non ci veda neanche da un occhio, sbaglio, avvocata? No, un occhio un po' compromesso, ma con può migliorare per il futuro. Ah, esatto, meno male. Assolutamente sì, meno male. Assolutamente sì. Senta, com'è andata questa udienza in cui, come lei diceva, ha avuto il coraggio e la forza di presentarsi in aula e ha guardato anche in faccia, mi pare, i suoi aggressori, insomma, che è una cosa che richiede una certa... Certo, credo che sia anche poi naturale che voleste vedere quello che è il suo presunto ancora tuttora aggressore, perché siamo ancora ovviamente in certo fase di processo, quindi però devo dire che era tranquillo, è stato secondo me molto bravo, sereno, purtroppo è dovuto rimanere poco in quanto sarà sentito come testa in prima persona e quindi non può essere influenzato dalle altrui testimonianze, quindi finché non testimonierà lui in prima persona non potrà assistere a tutte le udienze complete, quindi è stato solo nel momento iniziale, ma credo che sia stato un passo importante per lui, per riuscire ad andare insomma avanti. Importante ancora di più sarà l'ultimo tassello, no? Quella verità e quella giustizia che vuole, che merita. Senta, ma lui li ha riconosciuti oppure erano mascherati durante questa aggressione, i presunti aggressori per l'appunto? Questo poi agli altri poi lo testimonierà lui stesso, no, sono stati istanti in una notte verso le 5:30-6 del mattino di rientro da una discoteca, per cui non ha contezza, non ha mai avuto contezza di chi fosse né del motivo della sua aggressione, ed è questo quello che giustamente ha turbato lui e i suoi familiari più di qualunque altra cosa. Poi è stato le indagini di polizia giudiziaria sono state tantissime, oggi ce n'è stata appunto la testimonianza diretta appunto del direttore dell'ufficio prevenzione generale, la quale ha appunto riferito di tantissime analisi che sono state fatte su Savi, su Stefano, sui suoi familiari, da intercettazioni a qualunque altra cosa, ed è risultata una persona buona, specchiata, senza alcuna ombra, quindi non si capiva appunto il motivo di questa aggressione, dato che nessuno ce l'aveva con lui, ce l'ha con lui, insomma. Quindi è vero che ci può essere stato uno scambio di persona, come si ipotizzava? Assolutamente sì, questa è la tesi dell'accusa ed è la tesi anche di noi difensori di Stefano. Perché probabilmente assomigliava a qualcuno che loro volevano colpire. Assomigliava esattamente in viso a colui che hanno colpito, ricercato pochi giorni dopo, e 2 settimane dopo hanno tentato di colpire e fortunatamente si è salvato. Senta, ma il suo cliente Stefano Savi le ha detto poi, ha fatto un commento sull'udienza di oggi, le ha detto qualcosa? Ma guardi, l'ho sentito brevissimamente perché abbiamo finito in realtà tardissimo, quindi lo risentirò più tardi, ma stava bene, era contento, era sereno e questa è la cosa più importante. Credo che tornerà sicuramente, senza dubbio, non solo quando dovrà testimoniare, ma qualunque volta, insomma, ne vorrà, forse anche nel processo contro l'Alevato, perché è anche un suo diritto, essendo appunto parte offesa di reato e parte costituita civile, essere presente. Mi dice solo quale sarà la prossima tappa, la prossima udienza, se già si sa? Abbiamo venerdì, iniziamo il processo, che è un processo abbreviato, contro Martina Levato e Magnani. Complice, sì. Esattamente, che è un processo a porte chiuse, non so se Stefano verrà, e mercoledì prossimo invece continuiamo il processo contro Butcher, dove verrà sentito Magnani. Avvocata Benedetta Maggioni, io la ringrazio molto e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Altrettanto, buonasera. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi stanno a cuore le riforme, vi chiedevo, Michele scrive, esistono riforme e riforme, penso che si sia persa di vista la scala delle priorità. Adriana, sta molto a cuore un efficace spending review. Corrado dice, a me stanno sopra un'altra cosa meno nobile. Stefano dice, classe politica autoreferenziale lontana dai problemi della gente comune. Ma vi riassumo molto velocemente le notizie più importanti, con sempre il governo che dibatte sulle riforme, accelera, domani il DDL Boschi sarà in aula, ma la minoranza PD non ci sta e anche le opposizioni insorgono. Battaglia al confine ungherese con la Serbia, la Croazia intanto apre ai profughi e l'Unione Europea spinge sugli hotspot che dovrebbe creare l'Italia. Il ministro dell'economia Padoan dice, il governo studia nuovi interventi per gli esodati, ma la Fornero non si cambia. Europa 24 notte. Per lo spazio europeo parliamo della protesta dei tassisti contro Uber in marcia da tutta Europa a Bruxelles. Tutti in coda e 1000 tassisti provenienti da mezza Europa, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Germania hanno bloccato il quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, proprio mentre nella sede del Parlamento si discuteva dell'emergenza profughi. I tassisti sono tornati in strada, compatti in tutta Europa, per protestare contro Uber, il servizio di autonoleggio con conducente. Proprio da Bruxelles, dopo le contese nazionali, potrebbe arrivare infatti la regolamentazione a livello comunitario, scavalcando di fatto le norme dei vari paesi. Taxisti coordinati in tutta Europa, in Italia Pietro Gagliardi, sezione taxi dell'Unione Artigiani. Uber sta cercando in tutti i modi a livello europeo di cercare di legalizzare dove trova sponde per far legalizzare questa cosa che in realtà in tutti gli stati ha trovato delle grosse difficoltà. Abbiamo intrapreso una battaglia legale anche a livello europeo a Bruxelles, dove è in corso ancora, c'è una battaglia legale in corso e vedremo quali sono gli sviluppi. Di fatto si sta creando una sorta di asse europeo dei tassisti. Certo, perché in realtà questi stanno cercando di bypassare ogni tipo di regola e quindi stanno cercando di stravolgere questo servizio e noi saremo sempre più che mai compatti per cercare di non permetterlo. Bruxelles decisa ad andare avanti nonostante le proteste. In Commissione Trasporti del Parlamento Europeo siede Daniela Aiuti, europarlamentare italiana del Movimento 5 Stelle. I taxisti vanno tutelati, dice, ma non si possono fermare le nuove tecnologie. La Commissione si è espressa con un invito a una regolamentazione per aprirsi al mercato del trasporto condiviso e quindi anche di sistemi come Uber, chiaramente invitando a colmare il divario legislativo laddove si verifichi appunto un vuoto normativo, come è il caso appunto del divario tra i tassisti e il sistema Uber. Per quanto riguarda il Parlamento, all'interno di un dossier che abbiamo votato in plenaria c'era proprio un paragrafo che invitava appunto alla regolamentazione di questo settore, quindi qualcosa si sta muovendo, non si tratta di voler scavalcare gli stati membri, si tratta però di un invito a fare queste regole che oggi non ci sono. Non possiamo porre un freno alle nuove tecnologie che avanzano. Ci sono diversi paesi europei nei quali ci sono state già battaglie legali, ricorsi e sentenze. Peseranno a Bruxelles? quando i singoli stati membri si muovono in autonomia su queste cose, ecco, penso a stati come la Germania che insomma un po' chiuso le porte al servizio di Uber, sicuramente queste posizioni non sono mai viste di buon occhio né dalla Commissione né in generale dal Parlamento intero, perché diciamo si vuole prima portare alla regolamentazione, dopodiché ciascuno Stato membro all'interno di quella regolamentazione si potrà muovere. Ecco, gli atteggiamenti di chiusura non fanno mai bene né quando sono sul tappeto economico né quanto riguardano altri argomenti. Insomma. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora abbiamo un minuto esatto per raggiungere Carmelo Presti Simone a Lille, dove la pallacanestro italiana sta giocando contro la Lituania. Carmelo, come va? 8:45 alla fine del terzo periodo, è appena iniziato il secondo tempo e la Lituania è avanti, più 4, 40 Lituania, 36 Italia, con Alessandro Gentile che in questo momento sbaglia la tripla di un eventuale avvicinamento nello score per l'Italbasket. Italbasket che comunque regge ai ragazzi del Baltico, nel secondo periodo è stata anche avanti più 7 grazie al contributo importante da parte della panchina. Il tandem Cusin Melli sotto canestro hanno prodotto 6 punti importanti. 8:14 alla fine del terzo periodo, Lituania 42, Italia 36, da Lille a te Roberta. Grazie Carmelo Presti Simone, speriamo che l'Italia si faccia un po' più avanti rispetto al risultato. Io vi lascio momentaneamente, ci ritroviamo alle 22:00.